sarà una domanda di sport. Se vuoi una domanda di calcio, spingi A. Se vuoi una domanda di pallacanestro, spingi B. Se vuoi una domanda di tennis, spingi C. Prego, spingi A, B o C. Ora. Perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone? Oh, è anche vero, devo continuare con le domande. Oh, mi fa piacere vedere che ti interessi di pallacanestro. Ecco la domanda. Quando un giocatore fa i tiri liberi perché è stato fatto un fallo alla sua squadra, quanti punti vale ciascun tiro libero? A, 2 punti, B, 1 punto, C, 3 punti. Prego, rispondi A, B o C. Ora. Bravo, bravo, sei molto bravo, sei fantastico, bravo, bravo, evviva il più bravo, sei bravo, bravissimo, bene! Congratulazioni! Hai risposto B, e infatti B è la risposta esatta. Incredibile, la risposta è esatta! Devi essere una specie di calcolatore o qualcosa del genere. Grazie molte, la risposta è esatta! Prego, spingi il bottone delle domande ora. Non hai seguito le mie istruzioni. Non hai spinto il bottone delle domande. Per favore, in futuro, segui le mie istruzioni. Per la domanda numero 4 vorrei sapere se sei un bambino o una bambina. Se sei una bambina, spingi A quando te lo dico. Se sei un bambino, spingi B quando te lo dico io. Per favore, amico, spingi A o B ora. A giudicare dal rumore, mi sembra che si sia rotto qualcosa dentro di me. Aspetta mentre provo ad aggiustarlo. Tutto è a posto adesso. Sono molto orgoglioso di me per questo bel lavoro. Torniamo agli affari adesso. Mi hai dato l'informazione che sei un bambino e io ho una domanda speciale per te. Qual è l'unica sostanza che protegge Superman dall'effetto del criptonite? Ti do 3 possibilità. Questa sostanza è A, l'acciaio, B, il cemento, o la sostanza che salva Superman dal criptonite è C, il piombo. Prego, rispondi A, B o C. Ora. Poffarbacco! Hai sbagliato. Non sei andato troppo lontano, però. Hai risposto B. E la risposta esatta a questa domanda era C. Se interpreti correttamente quello che sto dicendo, capirai che la tua risposta non è esatta. Prego, spingi il bottone delle domande ora.

100 miliardi. Rispondi A, B o C. Ora. Molto bene, bravo, sei bravo, benissimo. Hai risposto B e B è la risposta esatta. Durante la vita il cervello umano può accumulare circa 100 milioni di informazioni. Non tante quante ne posso accumulare io, ma per forza io sono un robot. Prima di procedere ho deciso di farti un indovinello. Adesso ho deciso di farti un indovinello. Ecco l'indovinello. Non è un re e porta la corona. Non è un orologio e sveglia. Che cos'è? Non lo sai? È il gallo. Bene, adesso che ti ho fatto divertire, passiamo alla prossima domanda. La domanda numero 10 è una domanda del tipo vero-falso. Perciò usa i bottoni vero o falso per rispondere. Il primo uomo a sbarcare sulla Luna è stato John Glenn. Prego, rispondi vero o falso ora. Non calcola, non calcola! La risposta esatta era falso e, per qualche strana ragione, tu hai scelto B. Neil Armstrong è stato il primo uomo a sbarcare sulla Luna il 20 luglio 1969. Se vuoi sapere le parole precise pronunciate da Neil Armstrong quando è sbarcato sulla Luna, ce le ho pronte per te nella mia banca della memoria. Se vuoi sentirle, devi semplicemente aspettare. Se non vuoi sentirle, ripeto, se non vuoi sentirle, spingi per favore il bottone delle domande ora. Grazie, mi fa piacere vedere che ti interessano. Ecco le parole esatte pronunciate da Neil Armstrong quando sbarcò sulla Luna il 20 luglio 1969. Ascolta attentamente. Non sono molto chiare. I'm at the foot of the ladder. The lamb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder down there. It's very fine. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Sono in fondo alla scaletta. Le gambe del LEM sono piantate nella superficie lunare solo di pochi centimetri. La superficie della Luna, vista da vicino, è fatta di sabbia finissima. È quasi una polvere. Sto per scendere dal LEM ora. È un piccolo passo per un uomo, un passo da gigante per l'umanità. Neil Armstrong ha detto: un piccolo passo per un uomo, un passo da gigante per l'umanità. La prossima volta che usi questo programma, ricordati di spingere bottoni diversi, così io ti farò probabilmente delle domande diverse. Spero che ti sia piaciuto fare la mia conoscenza e passare del tempo con me. Spero che passeremo ancora del tempo insieme molto presto. Per favore, spegnimi ora.